Mi ero preparato per la trasmissione di questa mattina un commento abbastanza sulfureo all'intervista in cui la domenica di Pasqua il cardinale Ruini aveva sentito il bisogno di dichiarare, in sostanza, che essendo il nostro un paese cattolico la Chiesa ha tutti i diritti, se non l'espresso dovere, di raccomandare di non andare a votare al referendum sulla procreazione assistita. Non che ci fosse in quel testo nulla di particolarmente scandaloso, a parte la disinvoltura con cui si applicava all'Italia un aggettivo che non sono così sicuro rispetti. Era anzi evidente che l'intervistato si sforzava di moderare i toni, di rassicurare in qualche modo la parte avversa, ma certo conteneva lo stesso delle affermazioni preoccupanti. Dall'affermazione, in certo modo condivisibile, per cui le riserve etiche della nostra società vengono in gran parte dalla tradizione cristiana, il cardinale riusciva a trarre delle conseguenze piuttosto spinte. Così sosteneva un po' spazientito che era ora di smetterla con l'idea che la religione e anche la filosofia debba essere qualcosa di privato senza rilevanza pubblica, e non si meritava di affermare che, visto che la Chiesa comunque ha sempre avuto nella storia un ruolo pubblico, non si capiva perché non dovesse continuare ad averlo in futuro, e nello specifico perché dovesse rinunciare a fornire un'indicazione di voto che nelle questioni etiche c'è sempre stata. Ed è vero che questo modo di ragionare è l'unico che sia lecito aspettarsi da chi è in quella posizione, ma spiaceva un po' constatare come anche il giorno di Pasqua un uomo di Chiesa di tanto prestigio continuasse a tenere lo sguardo così tenacemente ancorato a questo nostro mondo terreno. Oggi il cardinale Ruini ha altro a cui pensare, e dalle polemiche di questo tipo, per motivi di rispetto umano, sarà opportuno astenersi. Ma ammetterete anche voi che la prospettiva che quel porporato sia uno dei protagonisti del prossimo conclave e possa anzi venirne proiettato su posizioni ancora più alte di potere e responsabilità è piuttosto inquietante. La Chiesa, come ripetono oggi tutti i commentatori con desolante unanimità, è molto cambiata durante il lungo pontificato di Giovanni Paolo II. Il Papa ha compiuto delle straordinarie aperture nei confronti del mondo moderno, ha incrementato il dialogo tra le chiese, ha chiesto scusa agli ebrei, ha riabilitato Galileo, ha deprecato il logo di Giordano Bruno. Ma è anche il Papa che ha fatto beatificare Pio IX, ridando valore implicitamente al sillabo, e su certi argomenti né lui né i suoi collaboratori sono mai stati disposti a transigere. Alla fiducia nel braccio secolare, come si dice, alla possibilità di imporre per legge ai fedeli e anche a chi il fedele non è i comportamenti che considerano corretti e doverosi, non hanno rinunciato mai. Ed è questa in definitiva la frontiera su cui, alle soglie del terzo millennio e di un nuovo pontificato, siamo ancora impegnati a lottare tutti per la libertà di pensiero. Non si tratta naturalmente di contrapporre all'intransigenza ecclesiastica, come talvolta si dice, una sorta di integralismo laico. L'integralismo laico, che ne dica Rocco Buttiglione, non esiste. Integraliste possano essere solo le religioni, che disponendo di libri sacri cui riconoscono lo status di verità rivelata e che pure contengono a volte dei passaggi un po' imbarazzanti, no? Tipo la storia della creazione del mondo in 6 giorni nella Genesi o la descrizione nel Corano delle delizie carnali che attendono il maschio musulmano nell'aldilà, devono decidere se accettarne integralmente la lettera o sfumarla con un'interpretazione allegorica, storica o di altro tipo. È una scelta dal loro punto di vista difficile, spesso drammatica, su cui ci si lacera e sulla quale si gioca tutto lo spinoso problema del rapporto tra fede, tradizione e cultura moderna. Il laicismo è un'altra cosa. Non avanza pretese di verità e non deve interpretare nessuna rivelazione. Consiste semplicemente nell'atteggiamento di chi ha deciso, non importa per quale motivo, di non intromettersi nelle opzioni in merito dei suoi simili, anche quando non coincidono con le sue. Nasce dalla tolleranza dell'altro da sé, come l'ha definito il travaglio intellettuale del secolo dei lumi, e si esplicita nel rifiuto di imporre per via coattiva, amministrativa o legale quelle pratiche la cui adozione dipende da un fatto di coscienza. Può essere inteso il limite come una scelta di metodo e come tale non è né integralista né non integralista, nel senso che non può spingersi fino a un certo punto e fermarsi lì, non può applicarsi a certe scelte e non ad altre, non può accontentarsi di concessioni parziali o conciliazioni compromissorie come quelle che la Chiesa è disposta ad offrire. O si è laici o non lo si è. E certo è una posizione difficile. Chi ne accetta i presupposti è tenuto a rispettare e garantire ovviamente le libertà altrui, a costo di dare spazio a individui e organizzazioni che se appena potessero della sua libertà farebbero scempio. Tanto è vero che, per fare un esempio a caso, alcuni di loro oggi si danno un grande affare per mantenere in vita una legge che in nome appunto dei loro principi limita le scelte nostre. È una dissimmetria questa, della quale i clericali sono sempre stati acutamente consapevoli fin dai tempi di Giorgio de Maistre e sulla quale hanno sempre giocato alla grande. E si capisce, si tratta di un indubbio punto di forza. Ma siccome in ultima analisi si fonda su una contraddizione, e le contraddizioni presto o tardo si pagano, non escluderei, con tutto il rispetto dovuto alla Chiesa in questo giorno di lutto, che chi vi ci si affida possa andare incontro a qualche brutta sorpresa.